buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come ogni lunedì sera, qui siete a Entropia Massima. La trasmissione di scienza e tecnologia, che questa sera vedrà di nuovo come proposta il ciclo tecnologico. ...87.9 la frequenza per ascoltarci in FM da Roma e provincia, e siamo anche in DAB a Terni, naturalmente il sito ondarossa.info per ogni altra parte del mondo. E allora, mentre sfumiamo la nostra sigla, andiamo ad iniziare questa puntata, non senza aggiungere a questa voce che vi parla dagli studi di Via dei Volsci un'altra voce che invece ci raggiunge da un po' più lontano. Sì, buonasera a tutti quanti, a tutte quante. Sono Stefano, oggi da remoto. Spero sì. Che si senta correttamente la mia voce, si senta chiara e forte, il segnale sia non disturbato. Allora sì, ci si sente abbastanza bene, qualche disturbo c'è sempre, ma non dipende da questo collegamento, ma dai potenti mezzi in nostro possesso che cerchiamo di migliorare. Però oggi mi pare la tua voce abbastanza, che arrivi abbastanza chiara. Bene. Quantomeno al nostro mixer, da cui poi esce insieme alla mia per appunto raggiungere i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, oggi ci vediamo, diciamo, a distanza per questa puntata, ma insomma riusciremo comunque a interagire tra di noi. Ma la notizia interessante che forse possiamo dare è che ti trovi effettivamente in provincia di Terni, quindi effettivamente puoi accedere al DAB. Esattamente. Avendo una radio DAB potrei ascoltarmi, diciamo, in DAB. Sì, no, esatto, sono a un'oretta da Roma, insomma, però è una zona, diciamo, non ce l'hai, dicevi. No, non ho una radio DAB. Vabbè. Però insomma, no, dicevo che insomma mi trovo in una zona che è cara alla radio, per cui certo. E quindi altri sicuramente ci staranno ascoltando e li salutiamo, così come salutiamo, auguro, come sempre facciamo, tutti coloro che ci ascoltano in condizione di privazione della propria libertà. Allora entriamo nel vivo della puntata di oggi, la puntata del ciclo tecnologico, quindi la puntata in cui abbiamo parlato per ormai un'intera stagione di estrattivismo dei dati, ma principalmente di intelligenza artificiale, perché poi è stata un po' la cosiddetta intelligenza artificiale ad animare tutti i nostri dibattiti. E in qualche modo oggi vedremo che tra le altre cose per cui si può usare è anche quello di intensificare il controllo sensorio attraverso analisi automatiche di nostri contenuti come telefonate, come email, come chat, come interazioni varie ed eventuali che noi facciamo sul web o su internet più in generale. E questo sarà un po' il tema portante di tutta la puntata, quindi insomma parliamo di controllo, di sorveglianza e controllo, un tema naturalmente che non è mai mancato nelle nostre puntate, però gli abbiamo voluto dedicare una puntata in particolare proprio perché adesso riusciamo a parlarne anche insieme al tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, o se vogliamo essere un po' più precisi, del machine learning, per renderlo più efficace. Beh, certo, come sempre noi abbiamo, ancora una volta, diciamo, lo ricordiamo a questo punto, gli strumenti potenti di intelligenza artificiale, diciamo, che oggi abbiamo, consentono di estrarre valore da grandi quantità di dati di ogni genere, quindi da immagini, da testo, da suono, e quindi l'idea di poter implementare, diciamo, l'abilitazione attraverso questi strumenti di un vero e proprio sistema di sorveglianza. Adesso lo vedremo con alcuni esempi concreti. È qualcosa di reale, okay? Se vogliamo, diciamo, l'estrazione, diciamo, la capacità di comprendere statisticamente dei contenuti è un po' il primo aspetto che abbiamo sempre richiamato, no? di quell'apprendimento automatico che caratterizza queste tecnologie, per cui sì, è stato in realtà proprio sviluppato per questo scopo, quindi sì, esatto, no? Non sorprenda il fatto che si abbiano poi progressivamente anche degli affinamenti normativi, come vedremo più tardi, che si appoggiano alla capacità di misurare statisticamente dei contesti contenuti appunto in testo scritto piuttosto che in immagini o piuttosto che in parlato, ecco che fondamentalmente si vada poi in una direzione in cui le capacità previsionali di questi modelli vengano asservite a degli scopi che hanno il grande problema, quindi questo, diciamo, anticipiamo una considerazione che volevamo fare, ecco, no, che non vi sia, diciamo, un limite a questo tipo di impiego, cioè all'impiego di capacità previsionali con tutti i caveat e tutti i limiti che queste hanno, e che addirittura, diciamo, queste capacità siano, diciamo, dettate, siano progressivamente in qualche modo imposte da leggi. Esatto, imposte da leggi. Infatti il tema che un po' sarà farà da filo conduttore agli esempi di cui parleremo è proprio quello degli stati, degli organismi, delle istituzioni che chiedono ormai ai big tech, a queste grandi aziende che erogano questi servizi, chiedono di effettuare delle verifiche, delle scansioni, dei controlli per loro conto. Partiamo con il primo esempio. E partiamo dagli Stati Uniti, non potrebbe che essere così, e partiamo da Google. E alla conferenza, all'annuale conferenza IO/O 2024, quindi di Google, che si è tenuta a maggio, è stata presentata. IO sta per, non è diciamo il raglio di un somaro, ma è input output. Giusto, quindi ricordarlo. E una conferenza importantissima dove ogni anno Google presenta, insomma, le ultime novità, e a questa ha presentato una funzionalità che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per scansionare le chiamate vocali in tempo reale, e quindi le vuole scansionare queste chiamate vocali per ricercare degli schemi conversazionali associati a truffe finanziarie. Ecco, questo è il tema, un tema importante, il tema delle truffe è un tema molto importante, peraltro torniamo dalla conferenza, diciamo, da DAC Meeting, che anch'essa è una conferenza annuale, che insomma ci interessa molto, e che da questi microfoni, di cui questi microfoni vi parliamo sempre. Tra le altre cose abbiamo parlato di truffe proprio nel contesto di DAC Meeting, perché con l'intelligenza artificiale si sarà probabilmente una dilagare di metodi truffaldini che potranno essere utilizzati con un'efficacia fantastica. Quindi effettivamente, messa in questi termini, Google presenta una tecnologia per sgamare le truffe. Sembra interessante, no? Il problema è che come al solito gli esperti di privacy e di sicurezza avvertono che diciamo c'è un sottile margine, neanche, diciamo, no, che separa tutto questo dalla censura pura, e vedremo perché. Una volta che la scansione, diciamo, nei dispositivi, mettiamo negli smartphone per semplicità, ma possono essere qualunque tipo di dispositivi per effettuare chiamate, lato client, quindi lato utente, lato proprio dispositivo, dalla parte del dispositivo, una volta che la scansione è integrata da quella parte, nessuno può più impedire di fatto tecnicamente che ci possano essere delle censure. La demo di Google di questa funzionalità, diciamo, che è stata appunto presentata alla conferenza, Google ha dichiarato che verrà integrata in Android, naturalmente, nel sistema operativo degli smartphone, e quindi si stima che possa essere utilizzata da 3/4 degli smartphone del mondo. Questa tecnologia è alimentata da Gemini Nano, che è il più piccolo, qui Nano, dei modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google, che è nano in quanto può funzionare sul dispositivo, quindi può essere installato facilmente su un dispositivo. Sì, spieghiamolo soltanto un attimo, che una sola, diciamo, piccola forse puntualizzazione: questo Gemini Nano è appunto il più piccolo di una serie di modelli che Google ha messo a punto in risposta all'ormai diventato famosissimo e modello, diciamo, generativo testuale ChatGPT. Quindi si tratta di un modello di linguaggio installato a bordo del dispositivo mobile Android. Esatto, e tramite questo si fa, quindi, come dicevamo, una scansione lato client, quindi vanno a cercare le conversazioni, in questo caso telefoniche, ma può essere applicato a qualunque tipo di contenuto testuale, immagini, video, voci, qualunque cosa, quindi va a cercare all'interno di questi contenuti materiale che potrebbe avere a che fare con una truffa, e nella maggior parte dei casi magari riesce a trovarli, però ha naturalmente un margine di errore che non è neanche troppo basso, come vedremo. Attenzione che questo genere di pratiche può essere applicato anche ad altri campi, come vedremo per esempio nel caso dell'abuso sessuale su minori, o anche nel caso dell'adescamento di minori sulle piattaforme di messaggistica. L'Europa ha portato in campo qualcosa di molto molto simile. Apple, per esempio, ha abbandonato un piano per implementare la scansione lato client di materiale, diciamo, cosiddetto pedopornografico, quindi materiale di abuso sessuale su minori, nel 2021. Tuttavia i politici, e questo è il dato interessante secondo me, i politici hanno continuato a fare pressione sull'industria tecnologica per trovare dei modi per rilevare attività illegali, cioè diciamo che fa comodo alla politica che ci siano dei soggetti in grado di effettuare questo tipo di controlli in modo automatico e così efficiente sulle piattaforme, e quindi glielo chiedono proprio, è proprio richiesto, no? Quindi è chiaro che, come dicevamo, un movimento industriale di questo tipo è perfettamente in campo già, e può aprire la strada a qualunque tipo di scansione di contenuti, anche in modo anche in modo default, cioè per default li posso scansionare tutti, questo si può fare, comincia a essere una cosa possibile. Questo può essere interessante, come dicevamo, per le iniziative governative legate alla sicurezza, o per le iniziative commerciali, quindi si fa un po' di tutto. Meredith Whitaker, presidente dell'app di messaggistica Signal, un'app di messaggistica criptata, di cui pure abbiamo parlato qualche volta durante queste trasmissioni, detto diciamo in maniera semplice, è molto simile a WhatsApp o a Telegram o altre app di questo genere, ma ha un approccio più rispettoso della privacy delle persone. Insomma, Meredith Whitaker, presidente di questa app di messaggistica, ha avvertito così, queste le sue parole: questo è incredibilmente pericoloso, spiana la strada alla scansione centralizzata a livello di dispositivo. Infatti questo riguarderebbe anche la app Signal, no? Anche essa, come tutte le altre app, potrebbe essere oggetto di questo tipo di potrebbe incorporare queste funzionalità. E continua: dal rilevamento delle truffe è un passo breve al rilevamento di schemi comunemente associati, per esempio, alle cure riproduttive, facciamo un esempio, associati a materiale, relazioni, interazioni di persone LGBTQ, oppure denunce che possono arrivare dai lavoratori tecnologici. Potete fare tutti gli esempi che volete, ci sono tantissimi ambiti in cui la si potrebbe applicare, con l'idea di rilevare quando qualcuno sta parlando di qualcosa che per qualche motivo è ritenuto sgradito, sgradevole o illegittimo, illecito anche naturalmente, ma soprattutto parlando di censura, semplicemente basta che sia sgradevole a qualcuno. In tutti questi casi tecnologie di questo genere avrebbero effettivamente un impiego parecchio, efficiente ed efficace. L'esperto di crittografia Matthew Green, professore alla Johns Hopkins, ha scritto in un suo post, ha dichiarato: in futuro i modelli di intelligenza artificiale eseguiranno inferenze sui tuoi testi e chiamate vocali per rilevare e segnalare comportamenti illeciti, per fare in modo che i tuoi dati passino attraverso i fornitori di servizi, quindi per fare in modo che tu possa avere quel servizio abilitato, no? Che tu possa continuare a utilizzare quel servizio, dovrai allegare una prova a conoscenza zero, cioè una zero knowledge proof, cioè una prova che tu sia a posto con la scansione, che viene effettuata sul tuo dispositivo senza comunicare il contenuto dei tuoi dati. Quindi in questo senso è a conoscenza zero, cioè tu devi devi passare l'esame che avviene sul tuo dispositivo, che non ci siano nei tuoi testi nessuna delle cose sgradite a qualcuno o anche illegali, e solo dopo potrai effettuare la comunicazione verso qualcuno. Quindi va a precisare molto bene questo professore in crittografia che qui si tratta proprio di poter utilizzare un servizio, poter comunicare attraverso questi servizi o non poter comunicare attraverso questi servizi in base a ciò che la scansione produce come esito. E quindi chiaramente ci suggerisce un futuro distopico di censura tutto questo, no? Quindi siamo molto vicini dal poterlo realizzare, dice ancora il professor Green. Siamo un po' lontani dal punto in cui questa tecnologia sia abbastanza efficiente per essere realizzata, ma quanto siamo lontani? Solo pochi anni, al massimo un decennio, questa è la sua previsione. E quindi riportiamo anche il pensiero di un ricercatore indipendente polacco che lavora in Polonia, Luzak Olenik, dice: sì, interessante questa funzionalità antitruffa che voi volete apportare, potrebbe essere effettivamente utile aiutare le persone a non essere truffate attraverso la scansione dei contenuti che qualcuno scambia con queste persone, ma ha avvertito che la stessa identica infrastruttura potrebbe essere riutilizzata per la sorveglianza sociale. Questo significa che le capacità tecniche sono già state o sono in corso di sviluppo per monitorare chiamate, testi, documenti e alla ricerca di contenuti illegali, dannosi, odiosi o indesiderabili, iniqui, quello che sia. E questa tecnicamente effettivamente si chiama proprio censura, perché tutto questo è vero rispetto agli standard di qualcuno. Quindi dire che è censura significa semplicemente rifarsi alla definizione di censura. Fa un esempio anche il ricercatore. Dice così: andando oltre, un tale modello potrebbe ad esempio visualizzare un avviso, sta succedendo qualcosa di indesiderabile, oppure potrebbe bloccare la possibilità di continuare. Quindi dice: guarda, finché non si chiarisce questa cosa non puoi continuare a utilizzare questo servizio, oppure ancora potrebbe segnalare a qualcuno che quella infrazione è stata compiuta su quel telefono, oppure anche tutte e tre queste cose insieme, no? Sono tutte possibili. La diretta conseguenza è la possibilità di modulare tecnologicamente il comportamento delle persone, il comportamento sociale. Quindi parliamo di privacy, ma in questo caso parliamo anche di qualcosa di ancora più serio, no? perché parliamo proprio di valori e di libertà fondamentali, cioè il comportamento sociale può essere modellato attraverso questo tipo di strumenti molto semplici. Quindi se tu vuoi utilizzare questo servizio, se tu vuoi che non lo dico a qualcuno, non lo dico a un'autorità, no, a un'autorità di polizia o comunque, se non vuoi che io spifferi tutto, quello che puoi fare è adeguarti, puoi adeguarti allo stile di conversazione che io penso sia quello giusto. E vai. No, insomma, diciamo che tutto questo, in fondo, riassumendolo e sintetizzandolo, no? Noi siamo arrivati ad un punto in cui appunto nell'ultimo anno e mezzo i progressi che ci sono stati e che sono in corso nella messa a punto di strumenti che siano in grado di capire contesti, okay? Siano in grado di, più che di capire, in realtà non c'è una comprensione, sarebbe ampio qui aprire il discorso, siano in grado di misurare dei contesti linguistici. Okay? Allora, nel momento stesso in cui è possibile misurare questi contesti linguistici ed è possibile quindi simulare la comprensione di ciò che è il contenuto di quei contesti linguistici, e allora tutto quello che tu hai raccontato fino adesso improvvisamente, no, si apre in maniera naturale, no? Se io sono in grado di comprendere, tra virgolette, il contenuto di una conversazione vocale o, come nell'esempio di Google, o testuale, e posso farlo perché il modello non è più come ChatGPT sul server di un fornitore di servizio, ma è direttamente installato a bordo del cellulare che io compro, e allora, diciamo, la distopia contenuta nelle considerazioni che facevamo improvvisamente diventa qualcosa di molto di molto reale. E se da un lato e questo è un po' appunto l'altro tema che volevamo approfondire oggi, se da un lato come nel caso dell'esempio delle truffe che tu facevi o di molte altre potenziali attività dannose, può far comodo riuscire ad individuare e ad anticipare dei comportamenti delittuosi, in generale il tema della sorveglianza è un tema tipico delle società autoritarie di controllo, è delle società che censurano, delle società che inibiscono comportamenti dell'individuo. È ovvio che se io mi trovo ad utilizzare uno strumento, pur non avendo la certezza che quello che io dico, quello che io scrivo sarà monitorato davvero, anche se poi di fatto magari lo sarà, ma esatto, ma che magari potrà esserlo, è ovvio che io che cosa farò? Non farò nient'altro per non avere magari storie che uniformarmi magari a dei comportamenti. Tu hai parlato bene, no? Io potrei inserire sostanzialmente dei controlli in cui un modello come Gemini Nano, attivo sul mio dispositivo, comprende quello che io sto scrivendo, no? In qualche maniera misura, diciamo, il contenuto di quello che sto facendo e statisticamente decide che potrei proseguire in una maniera potenzialmente sconveniente, no? E allora quello che succede è che questo magari mi inibirebbe l'utilizzo di un certo servizio, allora io chiaramente non avrei più questa libertà, insomma, in una parola sola, è come avere... Ne verrei condizionato. Sempre appoggiato alla spalla qualcuno che mi sta con il fiato sul collo quando io scrivo o quando io parlo, no? E questo qualcuno magari cambia il cappello a seconda delle caratteristiche fondamentalmente del servizio, dell'applicazione, diciamo dell'uso che io voglio fare del mio dispositivo. Ecco, questo è un rischio importante. Assolutamente, e infatti il pericolo secondo me è proprio considerare questa come una tecnologia agnostica. Non è, a parte che non è veramente così, perché le scansioni e lato client, per esempio, del diciamo materiale pedopornografico si possono basare sui casi noti e quindi andare a vedere, sì, questa immagine è esattamente quella che io già conoscevo e che si sta diffondendo e quindi la vado a rilevare, ma anche su quelli sconosciuti. e quindi non è assolutamente agnostica, anzi deve poter inferire in tempo reale che qualcosa sta succedendo. E l'altro elemento molto, molto preoccupante è che i regolatori e i legislatori ne potrebbero voler abusare, ne vorranno abusare, si spinge a dire, no? Michael Viel, professore associato di in diritto tecnologico presso University College London, ne vorranno abusare. Questo è un altro tema veramente tremendo ed inquietante. Non fosse altro che perché i risultati che un sistema del genere può dare non sono comprovati, potrebbero essere difettosi, potrebbero essere vulnerabili ad attacchi. Ma certo, quindi, Davide, certo, questa è esattamente la questione che solleviamo sempre, su cui invitiamo gli ascoltatori e le nostre ascoltatrici comunque a riflettere sempre, no? Io non a caso nelle considerazioni che facevo precedentemente ho parlato di misurazione di contesti e non di comprensione di contesti, perché? Esatto. Perché questi strumenti sono degli strumenti che non hanno la stessa intelligenza che abbiamo noi esseri umani, non capiscono, misurano sulla base, diciamo, di vastissimi set di dati di addestramento, e quindi sono in grado di misurare statisticamente che un certo contesto ha un suo significato, ma non sono in grado di comprendere questo significato. In quanto strumenti statistici, ancora una volta lo sottolineiamo, sono soggetti a degli errori, sono soggetti a delle allucinazioni, e la domanda dunque che ci facciamo è che se, come si diceva, no? Come sosteneva il professore che citavi tu, regolatori e legislatori vorranno utilizzare e successivamente abusare di questi strumenti, staranno utilizzando ed abusando di strumenti il cui utilizzo è guidato dalla probabilità, e quindi in quanto tale è soggetto ad errore statistico. Esatto. Okay? Esatto. Allora, hai fatto benissimo aspetto, a ricordarlo, in effetti. Questo aspetto è fondamentale, perché poi tutte le iniziative anche che verranno di controllo dei corrispondenze digitali, degli scambi digitali, eccetera, no? È importante ed è bene sempre ricordarlo che saranno controlli comunque di natura statistica. Ok? Allora, questo aspetto quindi non sarà guidato questo controllo dal fatto che qualcuno, no? Cosa che sarebbe comunque intollerabile, no? Ma qualcuno umano come te sta lì che ascolta quello che dici o che legge quello che scrivi, no? E decide sulla base, no, di quello che tu scrivi o di quello che tu dici di aprire o meno, no? Il cancello nell'accesso ad un servizio o nell'utilizzo di un'applicazione o altro. Sarebbe intollerabile, ma ci sarebbe comunque, se vogliamo, un agente umano che in effetti potrebbe essere inserito in un sistema di garanzie, per esempio, no? Un sistema di garanzie democratico nel senso istituzionale del termine, le cosiddette democrazie. Sì, è quello a cui siamo sempre abituati. Qui invece andiamo verso qualcosa di completamente diverso. Qui la decisione viene presa da una macchina e viene presa, come ricordavi, su base probabilistica. Dai, facciamo una pausa, che abbiamo chiacchierato un bel po'. Ci ascoltiamo Goblin Dance di Dermabrasion. di nuovo in voce, siamo a Onda Rossa e alla, precisamente la trasmissione Entropia Massima, e stiamo parlando di controllo, di sorveglianza digitale, e ci siamo mossi inizialmente su Google, ora quindi Stati Uniti, ora torniamo sull'Europa, no? L'Europa che è famosa in tutto il mondo per aver diciamo tentato e continua a farlo per tentare insomma di porre un argine legislativo alle problematiche del contesto digitale di cui vi parliamo in questa trasmissione. Bene, anche in Europa ci sono delle notizie che probabilmente, se non le conoscete, vi stupiranno moltissimo. Parliamo infatti di Chat Control e in particolare di Chat Control 2.0. La Commissione europea propone di obbligare i fornitori di servizi internet in generale, di cercare automaticamente tutti i messaggi privati, le chat, le mail, per rinvenire dei contenuti sospetti. Quindi siamo nello stesso identico ambito. In modo generale e indiscriminato. L'obiettivo dichiarato dalla Commissione europea è quello di perseguire lo sfruttamento sessuale dei minori, ancora una volta, come tema che spesso viene utilizzato come grimaldello per entrare nel radar di interesse di chi dovrebbe approvare un sistema di questo tipo. Il risultato di questa iniziativa sarebbe quello di sorveglianza di massa, monitoraggio in tempo reale, completamente automatizzato di messaggi e di chat, e quindi la fine della privatezza della corrispondenza digitale, della comunicazione digitale. E tra i meccanismi che sono stati ipotizzati per questa proposta c'è il blocco, questo simile a Google, no? Il blocco della rete, cioè non puoi utilizzarla, il controllo addirittura anche degli storage personali, quindi dei meccanismi di archiviazione personali, quindi sui cloud, incluse le foto private, la verifica obbligatoria dell'età, anche questo è un altro elemento importante, questo per impedire l'utilizzo di sistemi ai minori di 18 anni. E che però, come vedremo, porta alla fine della comunicazione anonima, perché se devo richiedere a una persona la sua età insieme ad altri dati, di fatto sto rinunciando alla possibilità che questa persona possa esprimersi anonimamente, cosa che per esempio una vittima di abuso sessuale sui minori potrebbe desiderare per poter parlare liberamente con qualcuno. E poi anche gli app store sono stati presi di mira, quindi quei sistemi che consentono di scaricare le app, anche quelli verrebbero censurati. È molto interessante questo aspetto. E quindi naturalmente l'esclusione dei minori dal mondo digitale. L'11 maggio del 2022 la Commissione europea presentò questa proposta, che appunto renderebbe obbligatorio il controllo delle chat per tutti i fornitori di email e messenger, e si applicherebbe anche a quei sistemi di comunicazione crittografati end-to-end, che non sono nient'altro che ad esempio le chat di cui stavamo parlando prima, e quindi su WhatsApp, su tutti gli strumenti e le piattaforme, diciamo. Esatto, tutti i casi in cui si può utilizzare la crittografia end to end, cioè da estremo a estremo, quindi quella che garantisce che il messaggio viene trasportato in maniera crittografata, protetta, e quindi tecnicamente illeggibile ad un attaccante, dal punto A al punto B, da estremo a estremo. Qui però siamo nella zona in cui anche questi servizi sarebbero oggetto di questo chat control, attraverso un meccanismo client side, come dicevamo prima, cioè l'installazione su A o su B o su entrambi di sistemi software che sono in grado di tirar fuori le informazioni utilizzando altri canali, delle backdoor, se vogliamo dirlo in una maniera che piace un po' ai geek, no? Che però tecnicamente si potrebbero definire delle backdoor, Stefano, che dici? Ma sì, certo, sì, sicuramente stavo controllando anch'io un po' quello che è un po' il contenuto di questa proposta. E qui sembrerebbe abbastanza chiaro l'obiettivo. Tu hai parlato di Grimaldello. Allora, la questione è un po' sempre quella. È chiaro che nessuno può contrastare il valore virtuoso di un perseguimento di coloro che utilizzano materiale di sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico, questo mai, ed è chiaro e scontato che sia così. Ma ancora una volta questo aspetto qui fa breccia nella testa e nell'anima, se vogliamo, degli individui rispetto a questo processo che rende sistemi di sorveglianza come necessari nella moderna società digitale. Okay? È la stessa logica che si applica, ad esempio, ne parlavamo un po' oggi anche tra di noi, ti raccontavo un po' della mia esperienza in merito, alle telecamere di sorveglianza. No? Noi sappiamo quanto diffuse siano ormai in ogni luogo fondamentalmente del pianeta, no? dalle grandi affollatissime città fino anche a ad esempio a borghi piccoli come quelli in cui vivo io. E qual è la logica, il razionale che c'è dietro l'adozione così massiccia ed anche il business poi che si crea, no? su telecamere di sorveglianza? Il grimaldello lì è la sicurezza personale individuale, no? Nessuno può negare, ed è facilmente spendibile, il fatto che se io controllo un territorio garantisco una maggiore sicurezza a ciascun individuo. E questo ancora una volta va bene, è qualcosa che noi possiamo voler perseguire, ma qual è il limite tra una ragionevole sorveglianza abilitata da tecnologie potenti e un invece una deriva, no? della sorveglianza che è abilitata da un numero esagerato di queste telecamere di sorveglianza? Allora qui c'è un po' questa stessa situazione, no? Nel momento stesso in cui si rende possibile attraverso i potenti strumenti di cui parlavamo nella prima parte la comprensione tra virgolette, diciamo, quella comprensione simulata soggetta ad errore statistico di contenuto umano, l'appetito viene mangiando e quindi, come dire, il desiderio di mettere in atto, di mettere in pratica quindi di realizzare quindi dei meccanismi come quelli di cui parlavamo è reale. Quindi sì, insomma, fino ad oggi si pensava che strumenti crittografati, appunto cifrati da terminale a terminale, quindi per essere concreti, no? ciascun ascoltatore con i propri amici utilizzando WhatsApp scambia dei contenuti che non sono visibili a nessun altro se non a lui che li spedisce e a colui che è il destinatario. È chiaro che adesso, se per legge saremo obbligati e si sarà obbligati a condividere questo contenuto per ragioni di per ragioni di come quelle che dicevamo prima, per combattere lo sfruttamento sessuale materiale che contiene sfruttamento sessuale minore, se per questo motivo apprezzabile dovremo però rilasciare la nostra privacy, anche qui si pone un tema di bilanciamento, ok? E quindi certo, questo è un tema importante che riteniamo, diciamo, corretto sottolineare in questo momento. Qual è la misura, qual è il vero equilibrio tra gli aspetti e i vantaggi che l'adozione di una tecnologia potente comporta e le derive che tecnologie così potenti comunque hanno intrinsecamente connaturate in esse stesse? Ecco, la tua domanda in realtà è stata anche posta ai cittadini e agli stakeholder prima di partire con questa iniziativa e oltre l'80% dei rispondenti si opponeva alla sua applicazione. E quindi, ma d'altra parte anche qui, no, se volessimo ragionare statisticamente, no, io capisco anche qui, no, e quindi qui si ritorna al discorso su quello che i latini chiamerebbero, cioè est modus in rebus, no, cioè sulla misura delle cose, no, che invece in questo mondo digitale in cui la tecnologia ha assunto questo valore salvifico, in ogni caso tecnologia purché sia ovunque e comunque, ecco, no, nel caso di Google, benissimo, noi vogliamo trovare le truffe finanziarie, quanti sono i truffatori, quante persone, qual è la percentuale dei truffatori, no, no, nella popolazione tale, qual è la percentuale di persone che, grazie al cielo, sono molto bassa, diciamo, che utilizzano materiali di sfruttamento sessuale dei minori. È chiaro che quando tu fai una domanda di questo genere alla maggior parte delle persone, che sono persone, diciamo, che rientrano statisticamente nella normalità, diciamo, è chiaro che ottieni una risposta di opposizione, no? Quindi il tema è proprio questo, cioè il discorso è che usando degli argomenti, no, che evocano, perché ognuno di quegli 80% direbbe certo, facciamolo per combattere la pedopornografia, ovviamente facciamolo, però allo stesso tempo probabilmente non è lo strumento giusto, visto che Esatto, no? Nel senso che se per questo io è un po' come, ripeto, no? È un po' come decidere, noi abbiamo raccontato tante volte, no? Degli estremi che si creano e che sono spesso abilitati da una adozione acritica delle tecnologie, no? Quando abbiamo parlato di guerra da questi stessi microfoni, no? E denunciavamo un po' gli abusi nell'utilizzo di tecnologie guidate poi sostanzialmente dagli stessi modelli nei contesti bellici attuali, no? In Ucraina, come soprattutto a Gaza, no? negli ultimi 10 mesi, quanti sono, è un po' la stessa logica, no? È utilizzare dei cannoni per sparare a delle formiche, no? Però siccome il cannone ce l'abbiamo, allora usiamolo. Senza contare che dietro naturalmente ci sono altri interessi che evidentemente sono malcelati e che invece noi oggi vorremmo rivelare. Partiamo proprio da il nome Chat Control 2.0. Perché 2.0 e non 1.0? Perché in realtà un controllo delle chat 1.0 è già in vigore ed è una regolamentazione che consente, quindi la parola che uso è consente, ai fornitori di servizi di scansionare le comunicazioni volontariamente. Ok? Attenzione, quindi consente volontariamente. E poiché è volontaria, solo alcuni dei servizi di comunicazione non crittografati statunitensi l'hanno adottata, quindi Gmail, Facebook, Instagram, Messenger, Skype, Snapchat, le mail di iCloud e Xbox. Questi sono quelli che applicano il controllo delle chat volontariamente, ok? Qui però parliamo di Chat Control 2.0, perché invece c'è la obbligatorietà, la proposta parla di obbligatorietà dei servizi, dei fornitori di servizi, a effettuare controlli di questo tipo sul materiale che appunto tratta veicolato di, dalle piattaforme, cioè. Sì, veicolato dalle piattaforme a tema di abuso sessuale sui minori o adescamento di minori. E il Parlamento naturalmente è abbastanza contrario, seppur con tante differenze, a questa posizione. La società civile si è mobilitata, la Commissione europea ha deciso di rimandare, di prorogare di un paio d'anni l'applicazione di questa disposizione, anche per favorire queste discussioni e anche per tener fronte alle cause che sono state anche intentate contro questo tipo di proposta. Vediamolo un po' più nel dettaglio, così aggiungiamo degli elementi interessanti, no? Che cosa prevede effettivamente questa proposta di controllo delle chat della Commissione europea? tutti i servizi forniti a pagamento e anche tutti i servizi gratuiti ma finanziati dalla pubblicità sarebbero inclusi in questa obbligatorietà. E anche i fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione Europea sarebbero obbligati ad attuare questo regolamento. E i servizi di comunicazione interessati includono telefonia, email, messenger, chat, anche giochi, portali di incontri, videoconferenze, quindi c'è un po' tutto. Quindi ciò significa che testi, immagini, video e discorsi, riunioni video, messaggi vocali, telefonate, dovranno essere scansionati obbligatoriamente. E non sono esclusi, come dicevamo, i servizi di messaggistica crittografata end-to-end, quindi le chat, WhatsApp, Signal, Telegram, quant'altro. Anche i servizi di hosting, anche i servizi di hosting sono soggetti a questa normativa proposta. Spiega un attimo che cosa si intende per hosting. Intendiamo, diciamo, ad esempio servizi cosiddetti su cloud, che per esempio sono utilizzati per archiviare siti web piuttosto, certo, che file di servizio, per fare un nome molto comune, che cosa ci viene in mente? Che cosa ti viene in mente? Un hosting di file potrebbe essere in questo momento. Senza voler fare pubblicità, però potrebbe essere, non so, Google Drive? Sì, questi sistemi qui. Quindi fondamentalmente anche questi, quindi anche tutto ciò che è archiviazione personale, sì, che non viene necessariamente condivisa. Non viene necessariamente condivisa, esatto, questo è l'altro punto importante. Quindi non parliamo solo di comunicazione, ma anche di archiviazione di dati. Quindi, se vogliamo, qui c'è anche un utilizzo improprio del tipo di del nome della proposta, cioè il chat control. In realtà controlla molto di più che solo il chat. È un everything control. Everything control, esattamente. E l'altro elemento grave è l'obbligo di cercare all'interno dei contenuti. E attenzione, questo senza che vi sia, non solo senza che vi sia autorizzazione da parte di un giudice, ma senza che vi sia anche sospetto. Quindi cercare tutti significa che tu cerchi senza che neanche ci sia un sospetto, e quindi, diciamo, dichiari che c'è una violazione per un'attività dopo aver cercato senza nessun tipo di sospetto previo nelle conversazioni e nei dati personali di tutti e tutte noi. Dopo aver controllato, si prevede che i file e i messaggi sospetti vengano segnalati alla polizia. E qui ci siamo. Ecco, qui diciamo che si la supply chain, diciamo così, no? La catena della fornitura, di produzione, della sorveglianza, arriva fino all'ultimo tassello. Cioè, dopo che ti ho trovato, ti segnalo automaticamente, questo è interessante, automaticamente alla polizia. Quindi diciamo che si tratta appunto di una ricerca totalmente automatizzata, anche con il rischio di inondare poi la polizia di tanti falsi positivi, perché esatto, non dimentichiamoci che qui c'è sempre il problema dell'errore, no? È chiaro, ed è questo il tema interessante che emerge, che dicevo prima, no? Rispetto alla questione da un lato quello che stai dicendo tu adesso, cioè il rischio chiaramente sempre di avere dei falsi positivi legati alla natura statistica dei modelli che effettivamente sono dietro la valutazione, tra virgolette, diciamo, di questo materiale, ma dall'altra anche il fatto che chiaramente in percentuale, quello che stavo dicendo prima, no, grazie al cielo, diciamo, la maggior parte di noi, no, sul pianeta Terra non siamo dei pedofili. Quindi sostanzialmente, in buona sostanza, secondo la Polizia Federale Svizzera, l'80% delle segnalazioni che sono ricevute, no, non sono penalmente rilevanti, no? L'80% significa che 8 su 10 non hanno alcuna rilevanza penale. Okay? E quindi anche qua, no, la percentuale di materiale che è effettivamente, nel caso specifico parlando di abusi sessuali su minori, è una quantità estremamente bassa, no? Pagata, diciamo, con tantissimo materiale che non ha alcuna rilevanza. E abbiamo anche il dato della polizia irlandese, che è molto simile a quello della polizia svizzera, che quindi parla di un 20% sostanzialmente di segnalazioni che effettivamente poi vanno, vanno perseguite, quindi, a fronte di 80 che vanno, sono da cestinare. Quindi se ci pensiamo è un sistema intrinsecamente molto poco efficiente. Cioè è un sistema che da un certo punto di vista ha tanto spreco, no? E lo spreco che ha è tutto il materiale irrilevante che è comunque drenato. Per cui, come dire, cioè la questione, diciamo, al di là dell'aspetto, no? Al di là dell'aspetto di principio sulla sorveglianza come elemento in qualche modo sgradevole, fastidioso e se vogliamo non etico in una società libera, c'è anche l'elemento, diciamo, di efficienza tecnica, ok? Che dice, dai, se uno avesse uno strumento che ti desse, diciamo, supponiamo per assurdo, non esiste la certezza nella realtà, ma avessi il 100% del valore di confidenza, beh, allora dici, sai, c'è un elemento in cui, ma in realtà non c'è neanche questo, nel senso che no? Per cui c'hai una situazione nella quale raccogli tutto, il 20% secondo la polizia federale svizzera può essere che è qualcosa che è divinamente rilevante, poi dopo lo devi andare a valutare anche lì con strumenti automatici che possono magari sbagliare, quindi sono falsi positivi ma ci stanno pure falsi negativi, quindi no, e quindi vabbè. E pensa che nel frattempo, diciamo, le tue foto, se tu rientravi per caso in quell'80%, sono arrivate per esempio, non so, ai dipendenti che le devono osservare, le devono valutare, no? E quindi, che ne so, magari c'era una foto in cui te stavi a petto nudo in campagna, non so che dire, per qualche motivo è finita insieme alle tue figlie, mettiamo, e per qualche motivo il sistema ha valutato questa come un contenuto sospetto. Non è così, però nel frattempo la tua foto è andata ed è stata vista da qualcuno. E lo dico, ma non in modo ipotetico, ma perché ci sono stati degli abusi da questo punto di vista. Addirittura un dipendente di Google si è approfittato di questa evenienza per effettivamente fruire di materiale pedopornografico e si è fatto una collezione, diciamo, di materiale che non era assolutamente di quel tipo e quindi detto in maniera esplicita, le foto dei bambini sostanzialmente, e questo è stato proprio incriminato, è stato denunciato, quindi sono cose che sono possibili, no? L'animo umano è fatto così, così come pure finisce nei luoghi di verifica della polizia mondiale qualcosa che ci appartiene, qualcosa che è nostro, qualcosa che non vorremmo, che non è giusto che finisca lì, neanche per errore. E addirittura anche con il viaggio all'estero si potrebbero verificare delle violazioni ancora maggiori, perché visto che diciamo questa proposta mira a essere transnazionale, quindi prevedere anche all'estero la sua applicazione, se ti trovi ad esempio in un paese dove c'è una scarsa uno scarso rispetto per la privacy come gli Stati Uniti d'America, tu puoi diciamo trasmettere queste tue informazioni le tue cose vengono prese e utilizzate magari in modo improprio, e in generale chiunque può approfittarsi, chiunque avendo nei mezzi tecnici può approfittarsi delle tue cose, dei tuoi dati, delle tue foto, dei tuoi discorsi, dei tuoi discorsi segreti che avevi fatto pensando che fossero segreti, e quindi li può utilizzare per altri scopi. E chi ci garantisce che queste macchine di incriminazione, perché queste sono delle vere e proprie macchine di incriminazione, non saranno effettivamente utilizzate un giorno sui nostri smartphone e laptop? Diciamo che il tema è proprio questo. Allora, guarda Stefano, io metterei un altro pezzo perché siamo andati un pochino lunghi, è vero. Poi ci risentiamo per chiudere. Sì. Allora, questo è un pezzo degli Spinning Coin, Sleepless. Sara di nuovo in voce per quest'ultima parte di Entropia Massima. Io farei un attimo un approfondimento sulla questione della minore età, perché secondo me ci consente poi di criticare anche proprio l'efficacia di una proposta di questo tipo. Cosa dice la proposta? Non puoi più configurare account di posta elettronica o messenger anonimi o chattare in modo anonimo senza dover presentare un documento di identità o il tuo volto, rendendoti identificabile e quindi rischiando di fatto delle fughe di dati. Questo ostacola, ad esempio, chat sensibili relative alla sessualità, cosa che potrebbe essere un diritto anche per i minori, no? Comunicazioni anonime dei media con le fonti, per esempio whistleblower, no? Che diciamo grazie all'anonimato riescono a riportare situazioni che altrimenti non potrebbero riportare appena di conseguenze personali insopportabili, oppure anche l'attività politica, l'attività di militanza politica. Tutto questo sarebbe effettivamente ostacolato. Fra l'altro sulla sessualità tra minori c'è da dire che la polizia tedesca segnala che nel 40% dei casi di cui è stata fatta insomma sono stati riportati, si trattava di presunti abusi tra minori, quindi non si possono neanche definire pedopornografia, no? Ma si possono, ma rientra in un altro tipo di fenomeno. Quindi che probabilmente non ha rilevanza penale o non ha la stessa rilevanza penale della pedopornografia tra diciamo come abuso di un adulto verso un bambino. Continua: se hai meno di 17 anni non potrai più installare le seguenti app dall'App Store perché c'è un rischio di adescamento da un App Store, cioè da un luogo che contiene delle app che tu puoi scaricare. App di messaggistica come WhatsApp, Snapchat, Telegram, Twitter, app di social media come Instagram, TikTok, Facebook, giochi come FIFA, quello del calcio, Minecraft, GTA, Grand Theft Auto, Call of Duty, Roblox. Sto citando dei giochi che i miei figli giocano, immagino che anche altri bambini o figli di bambini dei ascoltatori utilizzano, sono giochi molto molto comuni, quindi nonché poi app di incontri, app di videoconferenze come Zoom, Skype, FaceTime. Se non utilizzi un App Store, il rispetto dell'età minima del fornitore sarà comunque verificato e applicato. Se hai meno di 16 anni non potrai più utilizzare WhatsApp a causa dei requisiti di verifica dell'età proposti. E lo stesso vale per le funzioni online appunto di FIFA 23. Se hai meno di 13 anni non potrai più utilizzare TikTok, Snapchat e Instagram. Ecco, queste sono tutte le conseguenze di questa proposta, che noi però vorremmo anche un po' portare per sfatare un po' di miti, no? Forse si nota una diminuzione da quando queste segnalazioni sono state rese volontarie? No, non si nota. Si nota un aumento ogni anno, quindi abbiamo un aumento, abbiamo raggiunto 22 milioni di segnalazioni nel 2021. Quindi la scansione dei messaggi privati non ha l'effetto di contenere la diffusione di materiale CSEM, XM, cioè appunto materiale da abuso abuso sessuale verso i minori. Ma perché questo continuerebbe a avvenire? Beh, perché chi lo dice che gli abusatori utilizzano questi canali, no? Se uno davvero è un pedofilo, per dire così, certamente non utilizzerà i canali tradizionali, farà di tutto per vivere nella clandestinità e quindi si doterà di sistemi fatti apposta per poter abusare, adescare o quant'altro. Si organizzerà tramite dei forum segreti, autogestiti, dove non ci sono algoritmi di controllo. Quindi in realtà il mezzo tecnico per superare questa disposizione esiste. Quindi non parliamo anche di questo, no? La sua efficacia non si nota. Anzi, continua tranquillamente. E E una delle cose che ci viene a dire è che ci sono molti altri strumenti per farlo che invece non sono controllabili allo stesso modo. Quindi uno dice: perché controlli proprio questi, che invece sono proprio quelli che uno che davvero ha una mentalità come dire criminale, no? si dota di strumenti più sofisticati. E poi che altro? La questione naturalmente della riservatezza dei cittadini, diciamo delle comunicazioni dei cittadini è evidente, si tratta appunto di la cosa che vi dicevo prima, cioè il personale della NSA, addirittura della National Security Agency, ha riferito di aver fatto circolare delle foto di nudo di cittadini maschili e femminili in passato. No? Questo fa il paio con quell'episodio dell'ingegnere di Google che vi dicevo prima, che è stato segnalato per aver perseguitato minori e diciamo sulla base di del materiale che doveva controllare. Non so, io non vorrei aprire nuovi capitoli perché purtroppo siamo in chiusura. Ma forse l'unico, diciamo, adesso al di là dell'aspetto, abbiamo citato, diciamo, dei casi. Sì, io volevo riportare il discorso sulla criminalizzazione dei minori soprattutto, no? Che diciamo voleva essere un po' questo il contributo di quest'ultima parte, no? Sì. E quindi appunto i giovani che condividono magari delle registrazioni intime tra di loro, il cosiddetto sexting, con controllo dei messaggi di questo tipo, le loro foto, i loro video possono finire nelle mani di investigatori criminali, perché poi di questo si tratta, no? Cioè investigatori autoattribuitesi tale titolo. Ma io direi che, diciamo, il tema secondo me importante con cui forse possiamo chiudere la puntata è quello che abbiamo, diciamo il fuoco l'hai centrato molto su questo aspetto che riguarda un argomento molto molto delicato, no? È un argomento molto delicato e su cui diciamo c'è una sensibilità chiaramente diffusa. Che cosa rivela questa cosa? Diciamo, parlare di questo e quindi dov'è che si possono intravedere, diciamo, dei pericoli, no? Parlare di argomenti delicati per giustificare delle nuove pratiche di sorveglianza è questo il tema. Cioè, il tema è, ancora una volta, quale deve essere il limite tra l'adozione di tecnologie potenti che abilitano forme di sorveglianza potenzialmente utili, no? Con una deriva di queste capacità. Okay. Allora, con una deriva di queste capacità e soprattutto l'idea dovrebbe essere quella di ragionare su delle alternative sempre che possono esistere alla diffusione del concetto che la tecnologia sia sempre la risoluzione ultima, no? di qualunque problema, no? Quindi questo valore salvifico della tecnologia. Quello che abbiamo raccontato oggi in fondo ci racconta proprio questo, no? Cioè il rischio di fare leva su dei temi sensibili e su cui c'è una convergenza di posizioni, no? La lotta alla criminalità, la sicurezza del cittadino, combattere no, delle, de, dei crimini assolutamente come dire esecrabili, no? Nasconde attitudini di tipo diverso, attitudini che possono essere appunto invece delle attitudini che riguardano fondamentalmente il controllo continuo di persone con posizioni politiche particolari, con inclinazioni personali giudicate in maniera non so, potenzialmente da deriva autoritaria, diciamo. Esatto, quindi questo è il grosso tema. e si può combattere, diciamo, probabilmente questa potenziale deriva soltanto con a mio avviso con una coscienza e con una crescita di consapevolezza dei limiti degli strumenti e con un pensiero critico che sia non vincolato da soltanto, no, il desiderio di comodità, di agio e di consumo facile che le moderne tecnologie abilitano. Quando queste componenti qui, che sono poi strumentali agli interessi di un capitalismo no, che vive sostanzialmente della monetizzazione di tutto questo, fin quando questa componente qui sarà quella dominante, allora sarà difficile riuscire a trovare delle soluzioni, e quindi si lascerà secondo me spazio anche a iniziative come quelle di cui abbiamo raccontato oggi, no? Iniziative che arrivano persino a prevedere delle proposte di legge che normalizzino dei processi di sorveglianza molto spinti. In buona sostanza, può avere un senso perimetrare, e qui c'è il tema molto delicato, noi abbiamo parlato da questi microfoni tante volte della necessità di perimetrare le derive delle grandi piattaforme, no, che in qualche maniera fanno profitto sulle nostre vite, sulle nostre esperienze, sui nostri dati, ok? Però allo stesso tempo, diciamo, il tema della libertà di espressione, il tema della riservatezza, come dire, il tema della riservatezza, quindi il tema di continuare ad esistere in un mondo digitale che sia non svegliato è un tema, quindi non abbiamo chiaramente delle risposte. Le risposte le troviamo insieme a chi ci ascolta. Nel senso che hai detto tu, cioè noi ci teniamo a fare queste trasmissioni per aumentare il grado di consapevolezza, invitiamo sempre tutti e tutte ad approfondire, quindi formazione su questi temi, consapevolezza, sapere, conoscere le cose e poi insieme cercare di contrastarle. Ecco, quindi chiaramente è un compito che noi dobbiamo invitare chi ci ascolta a svolgere, vincendo anche la pigrizia, perché naturalmente è comprensibile, no, che si tratti, vanno talmente veloci queste tecnologie che davvero si fa fatica a stare dietro, no? E poi ci forniscono talmente tanta utilità e semplicità nel fare le cose che ci abituiamo alla loro utilità, no? E quindi non ci viene in mente, no, di pensare a... Invece è una cosa che dobbiamo fare, quindi dobbiamo vincere la pigrizia, ci formiamo insieme, ci rendiamo consapevoli e poi proviamo a trovare degli altri modi, mettiamola così, degli altri modi. A questo punto chiudiamo la trasmissione di oggi, ma chiudiamo anche il ciclo tecnologico di Entropia Massima, che infatti questa è l'ultima puntata di Estrattivismo dei Dati. Abbiamo ancora forse un'altra puntata da confermare il prossimo lunedì, però questa è certamente l'ultima del nostro ciclo. Ci risentiremo da questi microfoni la prossima stagione. Ci sarà una prossima stagione di Entropia Massima? Beh, vediamo. Noi intanto ci godiamo la chiusura di questa, speriamo insomma di avervi interessato con queste puntate, e poi ci prenderemo anche un po' di vacanze durante estate, e poi speriamo di risentirci da questi microfoni con queste trasmissioni. Stefano, niente, allora saluta anche tu. Sì, saluto e ringrazio te, insomma ringrazio gli ascoltatori che avranno avuto la pazienza di ascoltarci e di sentire le nostre lucubrazioni, e mi auguro di poter di potersi di nuovo affiancare qualora ce ne sarà la possibilità a partire da settembre. Certo, infatti quest'anno diciamo ci siamo affiancati in maniera continuativa, mentre gli altri anni magari diciamo, tu partecipavi occasionalmente, no? Estemporanea, certo. Invece quest'anno, insomma, sì, ti sei fatto tutta la stagione, quindi è tempo di bilanci, sia interni che esterni. Fateci sapere, naturalmente scriveteci ondarossa@ondarossa.info, qualunque commento è molto ben accetto per Entropia Massima, così come per... Sì, ricorderei anche il podcast a questo punto, le nostre trasmissioni sono sempre, diciamo, registrate e proposte, diciamo, in podcast sul sito della radio, per cui per chi avesse voglia anche di avesse magari un interesse e pensasse che ciò che noi diciamo ha un qualche valore, lo segnali ad amici e conoscenti, segnali, diciamo, la disponibilità di un podcast sul sito della radio. Eh sì, così vi potremmo tenere compagnia anche con le differite, diciamo così, sì, durante l'estate, e poi ci sono anche le repliche comunque che andranno in onda, quindi insomma, forse la nostra voce vi capiterà ancora di sentirla nonostante non saremo in diretta, nonostante non sarà live, diciamo, però, okay. Va bene, allora si chiude qui Entropia Massima, vi lasciamo con le altre trasmissioni della radio, un abbraccio particolare a chi ci ha ascoltato dal carcere, e non ci resta che mandare la sigla.